I popoli vicini, quando sentirono che era stato ricostruito l'altare e rinnovato il santuario come prima, fremettero di rabbia e decisero di eliminare quelli della stirpe di Giacobbe che si trovavano in mezzo a loro e cominciarono a uccidere e a sopprimere gente in mezzo al popolo. Allora Giuda mosse guerra ai figli di Esaù nell'Idumea, nella Arcrabatene, perché assediavano Israele. Inflisse loro un grave colpo, li umiliò e si impadronì delle loro spoglie. Si ricordò poi della perfidia dei figli di Bean, che erano stati di laccio e di inciampo per il popolo, tendendo insidie nelle vie. Egli li rinchiuse nelle torri, si accampò contro di loro, li votò allo sterminio e diede fuoco alle torri con tutti coloro che vi erano dentro. Poi passò agli Ammoniti e vi trovò un forte contingente e un popolo numeroso al comando di Timoteo. Organizzò contro di loro molte azioni di guerra e furono sconfitti e annientati. Conquistò anche Jazer e le sue dipendenze e ritornò in Giudea. Anche i pagani di Galaad si coalizzarono contro gli israeliti che erano nel loro territorio per eliminarli, ma questi fuggirono ad Atema, nella fortezza, e inviarono questa lettera a Giuda e ai suoi fratelli. Contro di noi si sono riuniti i pagani dei dintorni per eliminarci e si preparano a venire a espugnare la fortezza dove siamo rifugiati. Timoteo è a capo del loro esercito. Su, vieni a liberarci dalle mani di costoro, perché molti di noi sono caduti e tutti i nostri fratelli che erano nel territorio di Tubia sono stati messi a morte. Sono state condotte in schiavitù le loro mogli, con i figli e con i loro beni, e sono periti circa un migliaio di uomini. Stavano ancora leggendo la lettera, quando ecco presentarsi altri messaggeri dalla Galilea, con le vesti stracciate, che annunciavano le stesse cose. Dicevano: «Si sono uniti contro di noi gli abitanti di Tolemaide, Tiro e Sidone, e tutta la Galilea degli stranieri per distruggerci». Quando Giuda e il popolo ebbero udito queste cose, si raccolse una grande assemblea per decidere che cosa fare per i loro fratelli posti nella tribolazione e attaccati dai nemici. Giuda disse a Simone, suo fratello: «Scegliti degli uomini e corri a liberare i tuoi fratelli della Galilea. Io e mio fratello Giunata andremo nella regione di Galaad». Lasciò Giuseppe, figlio di Zaccaria, e Azaria, capo del popolo, con il resto delle forze, a presidiare la Giudea, dando loro questa consegna: «Governate questo popolo, ma non attaccate battaglia contro i pagani fino al nostro ritorno». Furono assegnati a Simone 3.000 uomini per la spedizione in Galilea, a Giuda 8.000 uomini per la regione di Galaad. Simone si recò in Galilea e sferrò molti attacchi contro i pagani, e questi rimasero sconfitti davanti a lui. Egli li inseguì fino alle porte di Tolemaide. Caddero tra i pagani circa 3.000 uomini, e Simone portò via le loro spoglie. Prese poi gli israeliti che erano in Galilea e in Arbata, con le donne, i figli e tutti i loro averi, e li condusse in Giudea con grande gioia. Da parte loro, Giuda Maccabeo e il fratello Giunata passarono il Giordano e camminarono per 3 giorni nel deserto. Si imbatterono nei Nabatei, che vennero loro incontro pacificamente e narrarono tutte le vicende dei loro fratelli nella regione di Galaad, che molti di loro erano assediati a Bosra e Bosor, ad Alema, a Casfo, a Maked, a Carnain, tutte città fortificate e grandi, che altri erano rinchiusi nelle altre città di Galaad, che per il giorno dopo era stabilito di dare l'assalto alle fortezze, di espugnarle e di eliminare tutti in un solo giorno. Allora Giuda, con il suo esercito, tornò subito indietro per la via del deserto verso Bosra. Prese la città e passò ogni maschio a fil di spada, si impadronì di tutte le loro spoglie e incendiò la città. Nella notte partì di là e marciarono fino alla fortezza. Verso il mattino alzarono gli occhi ed ecco una folla innumerevole che issava scale e macchine per espugnare la fortezza e stava attaccando. Giuda, vedendo che la battaglia era già incominciata e che le grida della città arrivavano al cielo per il suono delle trombe e le urla altissime, disse ai suoi soldati: «Combattete oggi per i vostri fratelli». Irruppero in tre schiere alle loro spalle, diedero fiato alle trombe e innalzarono grida e invocazioni. L'esercito di Timoteo venne a sapere che c'era il Maccabeo, fuggirono davanti a lui, che inflisse loro una grave sconfitta. Ne rimasero uccisi in quel giorno circa 8.000. Poi piegò su Alema, la salì e la prese, ne uccise tutti i maschi, la saccheggiò e appiccò il fuoco. Tolse il campo di là e conquistò Casfo, Maket e Bosor e le altre città di Galat. Dopo questi fatti, Timoteo raccolse un altro esercito e si accampò di fronte a Raphon, al di là del torrente. Giuda mandò a esplorare il campo e gli riferirono: «Sono radunati con lui tutti i pagani che ci circondano. Sono un esercito imponente. Anche gli arabi sono soldati come suoi ausiliari. Sono accampati al di là del torrente e sono pronti a venire a battaglia con te». Giuda si mosse per affrontarli. Timoteo disse ai comandanti del suo esercito, mentre Giuda e il suo esercito si avvicinavano al torrente: «Se passerà per primo contro di noi, non potremo resistergli, perché certamente ci vincerà. Se invece si mostrerà titubante e porrà il campo al di là del fiume, andremo noi contro di lui e avremo la meglio». Quando Giuda si fu avvicinato al corso d'acqua, dispose gli scribi del popolo lungo il torrente e comandò loro: «Non permettete che alcuno si fermi, ma vengano tutti a combattere». Passò per primo contro i nemici e tutto il popolo dietro di lui. I pagani furono tutti travolti davanti a lui, gettarono le armi e fuggirono nel tempio di Karnain. Conquistarono la città e appiccarono il fuoco al tempio con quanti vi erano dentro. Così Karnain fu vinta e non poté più resistere di fronte a Giuda. Giuda poi radunò tutti gli israeliti che erano in Galat, dal più piccolo al più grande, con le donne, i figli e i loro beni, una carovana molto grande, per andare nella Giudea. Arrivarono a Efron, grande città posta sul percorso, particolarmente fortificata, che non era possibile evitare da nessuna parte e bisognava passarvi in mezzo. Gli abitanti della città avevano chiuso loro il passaggio, barricando le porte con pietre. Giuda mandò a far loro proposte pacifiche dicendo: «Attraverseremo il vostro paese solo per tornare al nostro. Nessuno vi farà del male. Non faremo altro che passare a piedi». Ma non vollero aprirgli. Giuda fece annunciare a tutta la truppa che ciascuno si accampasse dov'era. I soldati si fermarono e diedero l'assalto alla città, tutto quel giorno e tutta la notte, e la città si consegnò nelle sue mani. Giuda passò tutti i maschi a fil di spada, la distrusse totalmente, ne prese le spoglie e attraversò la città, passando sopra i cadaveri. Poi attraversarono il Giordano verso la grande pianura di fronte a Bet-Sean. Giuda sollecitava quelli che rimanevano indietro e confortava il popolo durante tutto il viaggio, finché giunsero nella Giudea. Salirono il monte Sion in letizia ed esultanza e offrirono olocausti, perché nessuno di loro era caduto fino al loro ritorno in pace. Nel tempo in cui Giuda e Jonathan erano rimasti in Galat e Simone, loro fratello, in Galilea, di fronte a Tolemaide, Giuseppe, figlio di Zaccaria, e Azzaria, comandanti dell'esercito, vennero a sapere delle imprese gloriose, delle battaglie che avevano compiute, e dissero: «Facciamoci onore anche noi e usciamo a combattere contro i pagani che sono intorno a noi». Diedero ordine ai soldati che erano con loro e si diressero a Yamnia. Ma Gorgia uscì dalla città con i suoi uomini incontro a loro per attaccarli. Giuseppe e Azaria furono vinti e inseguiti fino al territorio della Giudea. E in quel giorno caddero circa 2000 uomini del popolo di Israele. Toccò questa grave sconfitta al popolo, perché non avevano ascoltato Giuda e i suoi fratelli, pensando di compiere gesta eroiche. Costoro non erano della stirpe di quegli uomini alle cui mani era stata affidata la salvezza di Israele. Il prode Giuda e i suoi fratelli crebbero in gran fama presso tutto Israele e presso tutti i popoli ai quali giungeva notizia del loro nome. Tutti si adunavano attorno a loro per acclamarli. Giuda con i suoi fratelli uscì ancora per combattere contro i figli di Esaù dalla regione meridionale e colpì Hebron e le sue dipendenze, distrusse le sue fortezze e diede fuoco tutto intorno alle sue torri. Poi levò il campo per andare al paese dei Filistei e attraversò Maresà. In quel giorno caddero in battaglia alcuni sacerdoti, i quali, smaniosi di eroismi, erano usciti a combattere sconsideratamente. Giuda piegò su Azoto, terra dei Filistei, distrusse i loro altari, bruciò le statue dei loro dei, mise a sacco la loro città e fece ritorno in Giudea.